attraverso un passaggio interno, dal civico 11 ci spostiamo verso la seconda parte dell'edificio e ci fermiamo al centro di un cortile fresco e in penombra. Questa parte dello stabile è il tipico esempio di una casa padronale, cioè la casa di una famiglia di benestanti proprietari di terreni coltivati soprattutto a mandorle e olive. Proprio perché intorno a questo tipo di famiglia ruotava tutta una serie di attività legate all'agricoltura, il piano terra di una casa padronale come questa era sempre destinato alle stalle dei cavalli e dei muli da lavoro e ai magazzini per i raccolti. C'erano anche, al piano terra di case come queste, botteghe per la vendita dei prodotti agricoli, magari della stessa produzione di famiglia. Vale anche per il palazzo dove ci troviamo ora, che aveva anche il privilegio di ospitare, nel locale con affaccio su strada, la spezieria Camillo Terlizzi, la prima farmacia della città, dal 1833. Ospitare una delle spezierie cittadine era un grande onore. La farmacia era un centro di vita, molte volte il cuore della vita paesana, un covo di intelligenza e di civili ardimenti. Affluivano pensieri, pettegolezzi, palpiti del piccolo mondo cittadino. Insieme al caffè e alla piazza, la spezieria aveva un ruolo d'onore e un'alta funzione culturale, storica e civile. E così sarà stato anche per la spezieria Camillo Terlizzi. Quasi tutti i palazzi signorili avevano una struttura analoga a quella in cui mi trovo. Un grande portone d'ingresso consentiva il passaggio delle carrozze con i cavalli nel cortile e poi una scala di pietra, spesso finemente lavorata, dava accesso ai due o tre piani superiori. Di solito al primo piano abitava la famiglia padronale. I piani successivi, a volte intervallati da mezzi piani, erano destinati invece alla servitù, agli amministratori delle aziende agricole o a lontani parenti che si erano ricongiunti alla famiglia più possidente. Nell'anta dell'Ottocento, l'agio delle famiglie benestanti derivava dal latifondo o da attività commerciali comunque collegate all'agricoltura. Famiglie che vendevano o scambiavano prodotti di cui era ricca la terra. Non c'era l'attività industriale nell'Andria dell'Ottocento, quella in cui si abitavano palazzi come questo. C'era un po' di artigianato, sì, ma quasi tutta l'attività della città era legata all'agricoltura, ai ritmi delle stagioni e al tempo della terra. Sul finire del XIX secolo, insomma, mentre solo l'Italia del Nord si avviava faticosamente verso la rivoluzione industriale, Andria, nel cuore del profondo Sud, si aggrappava ancora di più alla sua unica certezza, la terra. Questo spiega perché ancora oggi scorre nelle vene di questa città uno spirito contadino e un sistema di valori proprio della cultura agreste. Non mi stupisco perciò quando Annina insiste nel precisare che nonostante l'agio, anche le famiglie benestanti avevano il culto della parsimonia, quella capacità di generare ricchezze, accumularle e reinvestirle senza sperperi, anzi consumando fino all'ultimo i prodotti derivati dalla terra. Il Sud porta in eredità ancora oggi questo sentimento che altro non è se non prudenza, quasi una forma di modestia e di mancanza di pretese. E quella paura congenita di far debiti, di vivere al di sopra delle proprie possibilità. E l'essere indissolubilmente legati alla stagionalità dei raccolti, perché la possibilità che la grandine o una gelata improvvisa distruggano il lavoro di un anno intero è sempre dietro l'angolo. Vedo il padre di famiglia, proprietario di tutto e di tutti, che incuteva timore e a cui tutti, domestici, figli e spesso anche la moglie, si rivolgevano con il voi. Tutto era suo, immobili, denaro, raccolti, terreni, animali. Il padre di famiglia usciva di casa al mattino e lo potevi trovare o nei locali sottostanti del palazzo, dove si svolgeva l'attività commerciale, oppure in campagna ad amministrare le produzioni. A casa restava, a capo di tutto e di tutti, a dire il vero, sua moglie, inevitabilmente imbrigliata al modello della moglie obbediente, della madre feconda e della buona amministratrice di casa. Ma di fatto era lei la sola a possedere, quasi simbolicamente, le chiavi della dispensa, amministrata con un rigore e con una parsimonia assoluti. Questo ruolo di amministratrice, calcificatosi in secoli e secoli di intensa, instancabile e sotterranea attività di amministrazione delle donne, costituisce oggi per molte famiglie di Andria un vero e proprio sapere di famiglia, tradizionalmente tramandato di generazione in generazione. Un codice di nozioni sulla pulizia e sulla gestione dei beni che ancora oggi è vivo. E lo si tramanda di generazione in generazione e lo si vede riflesso in certi marciapiedi illustri che ciascuno pulisce quotidianamente come parte della propria casa e nell'odore pungente di detersivo che a metà mattina invade i vicoli della città vecchia. Ormai ci avviamo a superare il cortile e a proseguire. Risalgono i rumori e si rianimano i colori delle attività che una volta occupavano questi luoghi. Lo scricchiolare delle ruote dei carri carichi di derrate di olive, il suono tonfo delle balle di grano gettate a terra, la polvere che si alza, le urla divertite dei venditori porta a porta che si affacciano sul portone a dorso di un asino e forse qualche risata strozzata di donna. Ma su tutto si alza l'odore di terra, in mezzo ai raggi di un sole cocente che fende come una lama l'ombra e il fresco del cortile.